occhi sono come l'ora, anche perché il mio amore è fuori moda, anche perché la mia speranza è una coperta, anche perché la porta è ancora aperta. Amor mio, che te ne vai, tienimi, difendimi. Amor mio, tu solo puoi, chiamami, ripetimi. Anche perché il vento gelerà le ossa e la mia faccia non sarà più rossa, anche perché le braccia mi saranno rami, finché non sentirò ancora che mi ami. Anche perché il dolore nei miei fianchi brucia, il mio giorno non può andare avanti e mi manchi tu. Tutto il tuo respiro, perché manchi tu.